Disco. Giornali, libri, internet, radio ed altri mezzi che potessero servire da propaganda venivano utilizzati dai ribelli, refractarios, proprio perché non si andavano a confondere e fondere con il resto della popolazione zombie, era il nome di questo sparuto gruppo di ribelli. Essi non avevano preferenze tra governanti o religioni, i refractarios erano per l'autogestione della società e quindi combattevano contro qualsiasi forma che, attraverso il terrorismo psicologico e fisico, imponeva le sue leggi e regole di vita. In poche parole, erano contro ogni forma di autorità. Il grande lavoro dietro la propaganda, che molto spesso trovava pochi lettori, serviva ben poco perché il resto degli zombie erano totalmente assuefatti dall'acido FB, che gli aveva quasi corroso il cervello. Questo acido o droga era stato messo a disposizione di tutti, oltre a corrodere il cervello, rallentava i movimenti fino all'immobilismo totale dopo alcune settimane di somministrazione. Chi riusciva ad uscire di casa era comunque rallentato nei movimenti. Greggi di zombie camminavano per strada senza sapere nemmeno dove si stessero dirigendo, perché il loro pensiero era rivolto alla prossima somministrazione di acido FB. I telefoni cellulari di ultima generazione riuscivano in parte a sfamare la rota degli zombie. Anche tra alcuni refrattarios c'era chi faceva uso di questo acido. La maggior parte dei ribelli aveva preferito la polvere nera e la benzina all'acido globale. L'adrenalina che saliva, il cuore che pulsava durante ogni attacco a qualsiasi struttura del potere, era così intensa che nessuna droga o acido che sia poteva equipararne gli effetti estasianti. Il rischio di essere riconosciuto come refrattarios ed essere portato nelle fogne di galeria era molto alto, anche solo facendo propaganda scritta attraverso giornali ed internet, o orale attraverso le radio pirate. Sarebbe stato da stupido essere perseguitati per delle idee che rimanevano infangate nell'acqua stagnante della teoria, quindi i refrattarios spesso e volentieri passavano a mettere in pratica le loro idee che propagandavano spesso invano tra gli zombie. Nel quotidiano i ribelli si confondevano tra gli zombie nei luoghi nevralgici della Nazero 13. In fondo, anche se gli zombie erano totalmente assuefatti dall'acido FB, non si poteva fingere che non esistessero. Se non altro, i refrattarios che parlavano di uguaglianza e libertà dovevano calarsi nel tetro scenario metropolitano, altrimenti avrebbero fatto la fine di numerose sette religiose che popolavano la Terra. Lo scontrarsi o il confrontarsi con gli zombie nella vita di tutti i giorni poteva solo servire come arricchimento dei rapporti sociali che erano stati distrutti negli anni dalla propaganda statale e religiosa. Lo stare tra gli zombie con lo scopo della missione ideologica sarebbe stato ugualmente errato ed anche in contrasto con le idee di libertà. Una cosa del genere sarebbe stata meno grave rispetto a chi propaganda qualsiasi tipo di fede religiosa. Allo stesso momento i refrattarios non potevano erigersi a portatori della verità, altrimenti sarebbero caduti nella trappola dell'arroganza, dato che nemmeno loro avevano mai sperimentato quello che propagandavano. L'obiettivo dei refrattarios non doveva mirare sulla popolazione, ma doveva essere puntato e messo a fuoco sulla prossima struttura di potere da distruggere. Continua. Allora, dopo la terza parte del racconto da 013 e dopo un brano dei Bauhaus, Three's Uncle, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@distici.org per inviare qualsiasi tipo di comunicato, giornali online, iniziative e quant'altro, e anche qualche consiglio per i libri da leggere o su quello, oppure dei pareri su quello che si sta leggendo il lunedì su radiazione. Oggi è lunedì per l'appunto, e quindi dopo gli indirizzi e dopo un altro brano ritorneremo con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. Il blog radiazione.blog.org per vedere la controinformazione aggiornata quotidianamente, per scaricare o buscoli libri e cd, per riascoltare anche le vecchie dirette d'azione, anche quelle dell'anno scorso, ci sono tutte, quindi andate sulla categoria ascolta le dirette d'azione e potete riascoltarle quando volete. Per la radio radiazione.listentumaradio.com, o altrimenti attraverso il blog di radiazione ci cliccate sul banner e vi si accende direttamente la radio lunedì e venerdì dalle ore 17. Ora ci ascoltiamo un brano dei Ramones, il brano è Come On Now, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. Dicembre 2013, ricapitomboliamo nelle storie di pirati, nelle storie dei fratelli della costa raccontate da Valerio Evangelisti, ma comunque che evocano una serie di suggestioni che ci piace condividere con chi ci ascolta e con chi ci ascolterà, se mai ci ascolterà. Breve riepilogo delle letture precedenti: siamo oramai i fratelli della costa, dopo una spedizione per verificare il territorio, le condizioni della città della Nuova Spagna, così come era denominato il sud, gran parte del Sud America, alla fine del XVII secolo, sono oramai entrati in città, hanno assaltato, hanno conquistato la capitale della Nuova Spagna, come dicevamo, anche dandosi un po' al saccheggio, alla devastazione, come tanto piace chiamare queste attività a qualcun altro, e il nostro, diciamo, protagonista, che è Hubert Macari, secondo di un veliero, di un galeone pirata, ha anche trovato modo di osservare la donna di cui aveva ricevuto attrazione, un'aristocratica o non aristocratica, poi vedremo nel prosieguo del libro, che veniva stuprata da alcuni suoi compagni di ventura. Adesso sono entro le mura e c'è da portare a termine una missione quasi segreta entro le mura. Avvolta nell'oscurità, la scialuppa galleggiava lenta verso il bastione di San Juan de Ulua. Dalla fortezza ogni tanto si sparava verso la città, ma nessuno dagli spalti guardava il mare. Chi avrebbe mai tentato di approdare alla roccaforte quando poteva saccheggiare impunemente l'intera Veracruz? Macari e i suoi compagni, Levert, Big Willy, Le Schelette e Petro Insiguerra, cercavano di tenersi bassi, remavano piano, si confondevano tra le ombre. Non pioveva più, ma la luna restava velata. Macari era il più alto in grado e a lui spettava il comando, ma era distratto, inquieto. Non riusciva a togliersi dalla mente Gabriela che, fissandolo, aveva aperto le gambe. Un invito diretto proprio a lui? Forse no, o almeno di questo voleva convincersi. «Hubert, siamo quasi sotto la torre», gli sussurrò Levert. «Che facciamo?» Macari si riscosse dalle sue fantasie. «Abbiamo i grappini d'abbordaggio, riusciamo a raggiungere la merlatura?» Big Willy allora fece roteare il gancio a forma di ancora legato all'estremità di una fune. «Posso farcela, ciò attirerà le guardie, però, beh, dobbiamo correre questo rischio. E della barca che si fa?» chiese Vinciguerra. Macari si strinse nelle spalle. «La dobbiamo per forza abbandonare. Una volta iniziata la salita, da quel momento cammineremo nell'ignoto. Vuoi rimanere ai remi, Petru? Bada, corri un bel rischio.» Il corso annuì. «D'accordo. Cercherò di non farmi vedere. E tu, Big Willy, sei pronto? Sono pronte, allora lancia!» La corda e il grappino volteggiarono sempre più rapidi nelle mani del colosso. Li scagliò. Servirono 4 tentativi, ma alla fine le punte metalliche sprofondarono tra un merlo e la sua base di corallo. I pirati attesero reazioni che non vennero. Dal forte si continuava a bombardare a casaccio Veracruz, senza risultati. Ma il frastuono delle esplosioni copriva ogni altro rumore, mentre il fumo si faceva sempre più denso. «Adesso è il momento», disse Macari, e si inerpicò a forza di braccia con i piedi puntati sui blocchi della fortezza. In alto non c'era nessuno. La torre bianca si ergeva da una ridotta anonima quadrangolare. Nessuna delle guardie parve notare la piccola banda che scalava le mura. I pirati allora si radunarono alla base della merlatura, rannicchiati. Potevano scorgere un poco più in basso, non molto distanti, gli artiglieri all'opera. Forse gli spagnoli erano consapevoli della inanimità della loro fatica, però continuavano a scaricare palle in mare o, nei casi più fortunati, sul molo. «Non ci vedono e non ci sentono», disse Macari. «Raggiungiamo la Torre Bianca». Il pinnacolo, esile ed elegante, aveva una porticina spalancata. I quattro pirati, curvi e silenziosi, la raggiunsero e vi si infilarono. L'interno era illuminato da fiaccole appese al muro. Una scala a chiocciola si alzava verso la vetta e scendeva nella ridotta. Dal basso si levava un afrore spaventoso di marciume e di sporcizia che dava il cavogiro. Macari vinse la nausea e si rivolse ai compagni. «Dobbiamo scendere, impugnate le armi da taglio. Conviene non sparare. Qualcuno di guardia sicuramente lo troveremo.» Impugnò lui stesso la corta sciabola d'arrembaggio, strinse fra denti la misericordia e affrontò la discesa. Gli parve di essere tornato ai tempi della guerra delle Fiandre, quando un soldato era una pura macchina di morte, devoto ai capi, e si penetrava di soppiatto in un castello per sgozzarne tutti gli abitanti, servi inclusi. Non si attendeva però di trovare in basso, dove il puzzo toglieva il fiato, guardiani disarmati con la croce al collo e tonache nere lunghe fino ai calzari. «Gesuiti!» insomma, cari, e ciò turbò un po' con la sua pur vaga coscienza di cattolico. Erano tre e conversavano tra loro indifferenti al fetore. Spalancavano sui muri venuti gli occhi impauriti. Accennarono a gridare. Magari torse dalla misericordia di bocca mentre con la sinistra levava la sciabola. Avanti, disse ai compagni. Pugnalò un religioso in pieno petto. Altri due furono abbattuti da un solo volteggio dell'ascia di Big Willy. Il sangue schizzò le pareti in un corridoio tortuoso in cui si aprivano varie porte. E si mescolò all'acqua che gocciolava dall'alto, a tratti fitta come pioggia. Le pareti erano aperte di salnitro, il pavimento era bagnato da uno strato sottile di melma, tutto in quell'antro sapeva di marcescenza, di corruzione e di malattia. Levert frugò i cadaveri dei gesuiti in cerca delle chiavi, ne sollevò un mazzo, magari indicò la porta più ampia. Provale lì! Dopo vari tentativi la chiave girò nella serratura e le ante si aprirono, rivelando un vasto ambiente immerso nel buio. Per un attimo non accadde nulla, a parte la fuoriuscita di un lezzo intollerabile. Poi una masnada spaventosa uscì dalla catacomba. Erano uomini e donne, nudi, scheletrici, barcollanti, che il lume delle candele bastava ad accecare. Sui corpi, macchie rosse, piaghe, purulenze, rivelavano infezioni di varia natura. La massa non parlava, muoveva verso le torce che sembravano incantarla. Chissà da quanto non vedevano un lume. Magari fu sconvolto da alcuni bambini stretti ai fianchi delle madri. Non piangevano nemmeno, erano inebetiti. E gridò: «Fra di voi c'è una madamigella de Grammont!» La risposta tardò. Infine, un vegliardo dalla barba bianca e dal costato roso delle ulcerazioni indicò il fondo del corridoio. «Lei non è stata fortunata come noi, chiusi nel paradiso!» La cella più grande non è nemmeno nel purgatorio, la cella mediana sta da anni nell'inferno, in fondo nell'andito. Se è ancora viva, la troverete là. Magari faticò a credere che potesse esistere una cella più orrenda di quella appena spalancata, e invece sì. Lungo lo stesso condotto si aprivano una porta più piccola, probabilmente il purgatorio, e una minuscola, adatta a uomini di statura molto bassa. Preso da nervosismo, armeggiò a lungo con le chiavi prima di far girare nella serratura quella giusta. Aperto il battente, ne uscì l'odore pestilenziale ormai consueto, solo che qui dominava la nota putrescente come da una tomba spalancata. Si fece animo, ripose le armi, afferrò una torcia ed entrò nell'oculo. Quasi subito la fiamma accennò a spegnersi per la scarsezza d'ossigeno. In poco spazio erano ammassati esseri scheletrici, addossati l'uno all'altro, chini per le incombere del soffitto. L'ambiente prendeva aria solo da una strettissima feritoia verticale, infossata nella muraglia per varie braccia. Gli escrementi arrivavano nelle caviglie dei prigionieri, galleggiando sull'urina. A terra, due cadaveri finivano di decomporsi. Magari ne aveva viste di tutti i colori in vita sua, ma mai nulla di così atroce. Dovette deglutire prima di riuscire a chiedere: «Mademoiselle Claire de Grammont, è qui con voi?» Inizialmente non vi fu risposta. Stava per ripetere la domanda quando una voce flebile come un vagito mormorò: «Sono qua! Avete dell'acqua?» E un corpo si staccò dagli altri. Magari arretrò quasi spaventato, tanto che batté la nuca contro lo stipite, si abbassò e uscì nel corridoio. Dalla cavità lo raggiunse una creatura difficile da descrivere. Si intuiva che era stata una volta una donna, ma adesso era solo un pugno d'ossa con poca carne sopra, priva di capelli. Mostrava ulcerazioni d'ogni tipo, piaghe sanguinolente, ferite mal rimarginate. Non riusciva a reggersi e dovette appoggiarsi alla parete. Respirava rumorosamente, tremava tutta. Anche gli altri pirati erano impressionati. Allora si radunarono increduli attorno a Macari, che chiese: «Siete proprio Claire de Grammont, la sorella di Michel?» La donna, fino a quel momento a occhi chiusi, spalancò due iridi azzurre enormi tra le ossa del viso. «Sì, avete dell'acqua?» Macari si rivolse a Big Willy, l'unico del gruppo a indossare un mantello. «Copri subito questa signorina!» Il bruto obbedì senza discutere. «Quanto agli altri disgraziati, lasciate loro le chiavi, noi dobbiamo filare finché possiamo.» Levert lanciò il mazzo agli spettri che si stavano adunando nel corridoio, ancora inconsapevole di ciò che stava avvenendo. Macari raccolse Claire tra le braccia, un fardello leggerissimo. Poi tutti gli avventurieri risalirono la scala che conduceva all'esterno. Dagli spalti si continuava a tirar di cannone, ma in maniera sempre più svogliata. Molti artiglieri dormivano, indifferenti al frastuono degli spari, al vento e alle pioggerelle ricorrenti. Chi ancora vegliava era consapevole di non poter colpire il cuore della città. La luna era sepolta da massi di nubi in movimento. Un soldato spagnolo notò gli incursori e mosse verso di loro, più incuriosito che ostile. Non aveva compreso chi fossero. Si portò il quesito nell'oltrecomba. Big Willy gli sfondò il cranio con la scura. La corda pendeva ancora lungo la muraglia e la scialuppa, manovrata da Vinci Guerra, si vedeva appena. Macari non sapeva come scendere con il suo carico, lieve ma di ostacolo alle mani, e disse agli altri: «Calatevi prima voi, io verrò per ultimo. Prima lancerò questa poveretta in mare. Dovrete recuperarla a nuoto». «E si annega?» chiese le scheletto. «Ciò non deve accadere», ribatté Macari, le sopracciglia aggrottate. Non stavo obbedendo solo agli ordini ricevuti. La donna esangue gli premeva davvero. «Preparati a nuotare. Sei tra i pochi avventurieri capaci a farlo. Aspetterò che tu sia in mare e spingerò la donna. Devi issarla sulla scialuppa. Vale anche per te, Francis. Anche tu sei abituato al nuoto». Levert mugnò. «Ma non è mica facile. Lo so, però non vedo altra soluzione». Il primo a scendere fu Big Willy, che atterrato sulla scialuppa e si mise ai remi anteriori. L'escheletto lo imitò, ma scalata la corda si tuffò direttamente in mare, dove galleggiò a furia di colpi di gomito e di bracciate. Poi fu il turno di Levert, che fece lo stesso. Era il momento di lanciare in basso lo scheletro vivente, fetido e segnato da chissà quali malattie. Macari ebbe un sussulto strano. Premette brevemente le sue labbra sulle labbra di quel mostro. Lo inteneriva chissà perché. «Suerte», gli disse, e gettò Claire de Grandmont oltre i merli. Udì il tonfo in acqua, ma non poté calarsi con la corda come sperava. Una decina di soldati spagnoli lo circondava, le spade tutte puntate alla sua gola. Memory serves you well. Wheels on fire, rolling down. lei era Siouxsie and the Banshees con il brano This Wheel's on Fire. Ora continuiamo dopo la prima lettura di Vera Cruz con la controinformazione. Si va in Cile, dove c'è un testo di alcuni compagni che ci parlano di un'azione avvenuta a Santiago. Il testo si chiama 81 ragioni per bruciare un autobus. La sera di venerdì 6 dicembre di quest'anno, circa 30 compagni arrivati da diversi luoghi ancora una volta aprirono il Palermo a sorpresa, decidendo di andare fuori e ricordare con fuoco e odio di vendetta gli 81 detenuti uccisi nel massacro di San Miguel, la prigione. L'impunità della sua giustizia e il terrorismo del sistema carcerario si visero visibili in un nuovo massacro di oppressi e di emarginati di questa società di merda. Per questo ci rendiamo conto che sono morti per vendetta dello Stato e di una società desiderosa di punizione. Comprendiamo il sistema carcerario inumano nella sua forma di controllo. I campi di concentramento di ieri sono le carceri di oggi e vengono giustificati tutti i tipi di tortura, di denigrazione sotto la paura e lo sguardo complice di una società indifferente ad una realtà che noi oppressi viviamo ogni giorno. Con questo scritto vogliamo chiarire gli eventi di venerdì 6 dicembre nella periferia della USAC ai confini di Matucana con Romero, per non far perdere il senso dell'azione attraverso le bugie delle forze repressive e la stampa borghese. Neghiamo categoricamente l'uso di armi nell'azione, neghiamo anche la violenza in questione, secondo quello che dicono gli intervistati della stampa, contro il conducente e i passeggeri che erano sopra l'autobus e la quotidianità che si trovava in quel luogo, ma avvertimmo subito che non saremmo stati fermi davanti alle provocazioni. E infine abbiamo chiarito che questa azione era stata fatta per la commemorazione dei 3 anni dalla morte di 81 prigionieri che sono stati bruciati dai bastioni e le mura della società carceraria, centro di tortura patriarcale e del suo capitale. In questa azione c'è una dimostrazione tangibile delle contraddizioni della società borghese e conflitto che intendiamo instaurare per la sua distruzione, che non può sconfiggere lo Stato capitale in base ai parametri pace e amore dei cittadini. Noi non possiamo fare a meno di ricordare anche i nostri fratelli accusati nel caso Security, dove Freddy Fentuavilla Sa, Marcelo Villarroel Sepulveda e Juan Listen Vega sono sottoposti a processo per la morte di Paco Moiano. Ricordiamo anche il nostro compagno Carlos Guiterres Quidileo, che recentemente è stato catturato dopo essere stato in clandestinità dal 2007. Solidarietà attiva per i compagni detenuti in Spagna, Francisco Solar, Monica Caballero e anche per i nostri prigionieri politici e sociali in Cile e in ognuno degli angoli diversi nel mondo. Per quanto riguarda le azioni, verso le 22 partimmo dalle viscere dell'USAC con circa 70 bombe Molotov, 15 litri di benzina e lattine, tenendo d'occhio 7 poliziotti che erano in piedi nella parte anteriore accanto al loro furgone blindato, che se la ridevano rilassati, non sapendo che in pochi minuti, a pochi metri di distanza, in meno di 10 minuti, avremmo completamente incendiato un autobus della linea 406 della Transantiago. Dopo aver reagito e a missione compiuta, ripiegammo immediatamente nella USAC. Sul luogo dell'azione abbiamo lanciato dei volantini che ricordano 81 prigionieri torturati uccisi dalle braccia armate del capitale, in questo caso la gendarmeria del Cile. Vale la pena ricordare che l'obiettivo, l'autobus e la ragione dell'azione sono stati un ripudio al sistema dominante dei trasporti, con i suoi aumenti e minacce che quotidianamente vive ogni prigioniero di questo sistema. La sentenza è stata emessa tra griglie e manette, ma in tutto questo la mente non si è mai arrestata. Queste sono le parole di Monica Caballero agli 81 detenuti uccisi in carcere. Attualmente lei è detenuta in carcere in Spagna, accusata di un'altra assurda montatura. Moltiplichiamo la solidarietà in tutto il mondo con tutte le forme di lotta, fuoco per tutti i detenuti, fuoco a tutte le autorità. E poi sotto l'articolo che trovate sul blog di redazione ci sono dei link della stampa borghese, che praticamente racconta i fatti come sono avvenuti, fatti che poi i compagni hanno tenuto a precisare che non sono come quelli che raccontano i giornali. Ci sono anche le foto delle azioni, quindi per chi, a chi interessa, si può andare a rileggere l'articolo e vedere sia le foto che le notizie apparse sui giornali cileni. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Adults con il brano Shake Your Head, poi dopo si torna qui con la lettura di Vera Cruz di Valerio Evangelisti. Karì non aveva scampo, gli rimaneva una sola possibilità. Impugnò la sciabola, come se volesse sfidare tutti quegli uomini, e indietreggiò fino alla merlatura. Quando la sua schiena toccò la pietra, gettò l'arma e, con un balzo repentino, si lanciò nel vuoto. Il tuffo lo portò in profondità e gli fece ingurgitare acqua salata, ma con moti scomposti delle braccia e delle gambe riuscì a risalire in superficie. Attorno alla sua testa si levarono zampilli dovuti alle palle di moschetto che grondavano dall'alto. Una mano callosa afferrò la sua, più delicata. Era di Levert, che cercava di sollevarlo a bordo della scialuppa. E non fu facile, ma Karì dovette dispiegare un'energia disperata. Riuscì infine a scalare il bordo dell'imbarcazione, che oscillava pericolosamente sotto il suo peso. Mezzo annegato, si lasciò cadere sul fondo della barca e prese a vomitare l'acqua che aveva ingerito. I polmoni, a ogni respiro, gli infliggevano dolori lancinanti. Dall'alto degli spalti si continuava intanto a far fuoco, e Vinci Guerra, che era ai remi con Big Willy, lanciò un breve grido di dolore. Gli avevano graffiato un fianco e fu sostituito dalle verte che vogò con foga. Ma Karì, devastato dai conati, non capì molto di ciò che accadde in seguito. Vide solo la scialuppa addentrarsi nel buio verso gli incendi di Veracruz. Poté lentamente mettersi seduto, inzuppato e dolorante, e proprio in quel momento la barca toccava il molo, deturpato dai bombardamenti. Chissà come riuscì ad alzarsi in piedi e a salire dai gradini scivolosi. Si sentiva uno straccio bagnato, ai limiti delle forze. Riacquistò lucidità solo quando si trovò nel lato del palazzo della Contuderia, illuminato da migliaia di candele. Michel de Grammont stava ricevendo nelle braccia robuste di Big Willy la carcassa esangue della sorella. Il cavaliere, temuto in tutti i Caraibi per la sua crudeltà, piangeva senza ritegno. Strinse quel corpo piagato, baciò a più riprese le guance di carne sottili che modellavano il teschio della donna, tentò di mantenerla ritta, ma non ci riuscì. Infine l'adagiò su un divano, con la cautela riservata a un gioiello pregiato, cadde in ginocchio e le accarezzò le guance. «Claire, sorellina, l'incubo è finito per sempre. Sei bella come un tempo, sai, non sei cambiata affatto. Quei preti maledetti hanno cercato di farti morire, ma non ci sono riusciti. Adesso vivremo tu e io insieme e ti riprenderai». Lei spalancò gli occhi azzurri, prima l'uno e poi l'altro, fissò il viso chino su di lei. «Michel?» chiese esitante. «Sì, Michel, il tuo fratellino, che adesso sarà accanto a te e non ti lascerà mai più». Claire sbatté le palpebre, tossì prima di parlare. «Michel, io sto per morire», sussurrò. «Però è stato splendido rivederti, sì, felice, anche senza me». «No, non morirai!» De Grammont si guardò attorno. «Dov'è quel fannullone del dottor Exkemeling? Ogni volta che ho bisogno di lui, l'ubriacone scompare! Eccomi, eccomi!» Exkemeling emerse dal gruppo di avventurieri che gremiva ai lati della sala. Si chinò sulla donna, le prese il polso e con due dita le spalancò gli occhi. Diede uno sguardo alle lesioni rossastre che le maculavano il corpo e si perdevano sotto il mantello. Quando si raddrizzò aveva un'espressione molto pensosa. «Ho bisogno della mia valigetta, ammiraglio. L'ho lasciata nella Casas Reales. Ma soprattutto è necessario che questa gente esca da qui, c'è troppa confusione». «Acqua», gemette la malata. «Non ancora, mia cara. Prima devo capire cosa avete». Exkemeling fissò De Grammont. «Ammiraglio?» L'altro si riscosse. «Fuori di qui, fuori tutti!» Batté le mani roso. «E qualcuno porti la valigetta del dottore». Ma Karì, che stentava a reggersi in piedi, uscì con gli altri. Levert gli cinse le spalle, malgrado la statura inferiore. «Ti stai riprendendo, Hubert, ma hai bisogno di riposo. Tieni, bevi questo». E gli porse una fiasca. «È aguardiente, da forza, anche se poi seca le gambe». Ma Karì ingollò un sorso che gli bruciò la gola e in effetti recuperò energie e poté scorgere meglio ciò che avveniva intorno. Era una sarabanda infernale che la luna e le ombre amplificavano. Tra i palazzi del potere, la cattedrale, in un'atmosfera in cui il puzzo di bruciato aveva sovrastato i miasmi degli acquitrini, gli avventurieri sciamavano a branchi tra le suppellettili delle merci accumulate in Plaza Major, cantando e agitando bottiglie. La periferia di Veracruz era costellata dagli incendi e ciò causava zaffate di fumo nero e bagliori improvvisi, irregolari e fugaci. «Quasi tutti i compagni sono ubriachi», spiegò Levert prima di attingere a sua volta alla fiasca. «Del resto, presto lo saremo anche noi». «E De Grammont permette tutto questo?» chiese Macari, turbato da quel disordine. Levert gli porse di nuovo l'aguardiente e gli fece l'occhiolino. «Lui ha altro di cui occuparsi, come hai potuto vedere. E Lorenzillo e Van Horn non sono gente da impedire che i fratelli festeggino la presa della capitale degli spagnoli. Vieni! Cerchiamo una casa dove tu possa riposare». Transitarono, strascicando i piedi quanto più bevevano, accanto alla chiesa di Nuestra Signora della Merced. Era assediata dagli avvinazzati. Un uomo molto robusto uscì dall'edificio reggendo come un trofeo, alta sopra la testa, una ragazza mulatta completamente nuda che si divincolava e piangeva disperata. La gettò in mezzo all'orda, a mo' di regalo, fu sommersa dai corpi. François Le Bon riconobbe gli amici e si avvicinò, l'eterna pipa in bocca. Porse una bottiglia. «Non so che schifezza stiate bevendo, ma questo è molto meglio. Madera!» del migliore, trovato nelle cantine di un riccone. E non era per nulla ubriaco a giudicare dal tono di voce. «Grazie, ma preferisco la mia acqua vita», rispose Levert. «Che sta succedendo?» «Ah, niente! Gli spagnoli stanno quasi crepando, soffocati nella loro chiesa. Parecchi sono già morti, soffocati o calpestati dagli altri. Ogni tanto un compagno entra, sceglie una donna particolarmente bella e la trascina fuori. E dopo... che chi vuole se l'è goduta sia ancora vivo e viene ricacciata all'interno». Per un attimo Macari pensò a Gabriela, ma non si soffermò su quel ricordo. L'ottundimento provocato dalla stanchezza e dall'alcol glielo impediva. Si rammentò solo che aveva buoni motivi per detestare Van Horn, anche se in quel momento non avrebbe saputo precisarli. «François, sai dove potremmo dormire?» chiese Levert. Le Bon indicò col cannello della pipa le case attorno lungo la calle Maria Andrea. «Quelle abitazioni sono tutte vuote, potete scegliere quella che volete». E portò alla bocca la bottiglia e, mentre si asciugava le labbra, disse: «Si parla molto della vostra impresa. La sorella di De Grammont come sta?» «È più morta che viva. Non so se sopravviverà alla notte». «Allora domani l'ammiraglio sarà un diavolo scatenato». Le Bon fece una risatina. «Oh, non oso pensarci, è già cattivo di suo». Levert si incamminò con Macari, che teneva la fiasca e la stava svuotando, verso una villa dal portone spalancata, dotata di portico e di patio. Quest'ultimo era ingombro di oggetti che la luce lunare rivelava: ritratti di membri della famiglia, abiti maschili e femminili, sedie, orologi, utensili da cucina, le sponde di un letto, una culla rovesciata, un cappello piumato, mastelli e stoviglie. «Speriamo di non trovare cadaveri anche qua», mormorò Macari. «Oh, ma ce ne saranno, purché non siano dove dormiremo». E si diresse verso un accesso al cortile che emanava una debole luminescenza. Introduceva un salotto molto ampio che gli avventurieri avevano devastato da cima a fondo fino a lacerare le tappezzerie e gli arazzi. Sull'unico divano intatto un uomo rannicchiato russava sonoramente. Si destò all'arrivo degli intrusi e balzò a sedere, due pistole in mano, ma si rassenerò ancor prima di sollevare il cane delle armi. Le depose sui cuscini e sorrise. «Ah, siete voi? Non si può mai sapere, questa città formicola di canaglie». Era Ravenò de Lussano, una sorpresa poco gradita a Macari. Il gentiluomo, malgrado la posa disordinata che aveva assunto sul divano, appariva impeccabile, con abiti senza una piega. Un gesto nell'aria ravvivò le piume multicolori che gli ornavano il cappello, calcò il copricapo sulla parrucca. Invece che nella cruda Veracruz, odorante di sangue, pareva sedere su uno dei divanetti dei corridoi di Versailles. La differenza era che due sole candele, ormai prossime all'esaurimento, mostravano il suo gesticolare elegante. «Siamo venuti anche noi per dormire», disse Levert. «Abbiamo dell'aguardiente, ne volete un sorso?» Don Lussano indicò un tavolino in marmo rosa e la bottiglia e il bicchiere vuoti che vi erano posati sopra. No, grazie. Ho trovato in questa casa dell'eccellente cognac. O cognac, come dicono i francesi. Ecco, perché mi avete scoperto? A ronfare della grossa. Ci sono stanze da letto di sopra? Certo che ce ne sono, direi che non c'è altro. Ho saputo della vostra impresa, ne parlano tutti, complimenti. L'abbiamo preparata bene e voi avete seguito. Ma non partecipate al festino che si svolge in città. Beh, sta avvolgendo al termine per l'ubriachezza generale, spiegò Leverta. Abbiamo poche ore per riposare, siamo stanchi. De Lussanzo ghignò. Peccato. Avete un paio di centinaia di esseri umani alla vostra mercé e potete farne ciò che volete, sbizzarrirvi in ogni specie di supplizio. Badate, è un'occasione rara. Leverta acqua e Macari, reso più disinvolto dal consueto e dall'ebbrezza, sbottò. Io non faccio cose indegne per un buon soldato. Però lasciate che gli altri le facciano al posto vostro. Beh, si tratta di spagnoli, spietati da sempre nei confronti degli indios e delle altre etnie sommesse. Se io vi raccontassi le atrocità... De Lussan raggrinzò il viso in un'espressione divertita. Risparmiatemelo il vostro racconto, lo conosco. Ho letto il vescovo Bartolomé de las Casas e la sua breve storia. E così i fratelli della costa sarebbero qui a Veracruz per vendicare gli indigeni, per fare il loro bene. Interdetto Macari rispose. Beh, in un certo senso sì. E colse per primo l'insincerità della sua replica. De Lussan tastò i cuscini del divano alla ricerca della posizione giusta. Tornò quindi a raggomitolarsi. C'è una scala là in fondo, disse volgendo la schiena. Porta a varie camere da letto per adulti, bambini e schiavi, scegliete quella che preferite. E un istante dopo russava nuovamente. Mentre saliva i gradini di marmo, Macari si sentiva umiliato, senza saperne però il motivo. E odiò De Lussan come non mai. We'll be right back. Loro erano Armageddon Dildos con il brano House of Pain. Ora si continua con la controinformazione e si va in Grecia, dove c'è stata una sparatoria, cioè, più che altro la sparatoria, c'è stato uno sbirro che ha sparato ad un compagno. Leggiamo il testo che prendiamo da un altro sito, scritto dal compagno che è stato ferito. Prima di cominciare la descrizione degli eventi vorrei riferire i motivi per cui non ho sporto azione legale. Innanzitutto mi dichiaro anarchico e anti-autoritario, quindi la mia coscienza non fa riferimento a procedimenti legali. Chi combatte per la libertà deve mantenere una linea chiara riguardo al sistema e ai benefici che ne derivano. Nell'analisi dei fatti che segue, avvenuti due giorni prima dell'anniversario dell'omicidio di Grigoropoulos, vorrei chiarire che non mi sento una vittima di questo attacco, poiché, come ho già detto prima, la linea è definita dall'altra parte, e dall'altra parte c'è il nemico. La sera del 4 dicembre, mentre mi trovavo nel quartiere di Exarchia con alcuni compagni, abbiamo capito che tre poliziotti borghesi ci stavano seguendo vicino all'incrocio tra Benachi e RSO. Dopo una rapidissima consultazione tra di noi, li abbiamo cacciati rumorosamente. Due sono corsi verso Dervenion, verso Zodoxu Pigis, mentre il terzo è scappato ad RSO. Per sbucare anche lui su Zodoxu Pixis. Per nulla sorpresi, vediamo i due girare su Vattesio verso Xarilao Tripukopi. I nomi greci sono sempre una martellata. Cioè esattamente verso il presidio permanente dei Mat. Come ci giriamo per tornare indietro, vediamo il terzo sbirro borghese e gli grido: dove vai, sbirro di merda, adesso? Improvvisamente mi accorgo che tiene in mano la pistola con la canna dritta e mi urla: vieni qua che ti difotto, battendosi il petto. Durante i secondi successivi ha sparato e io ho gridato: che fai, mi spari? La risposta è stato un colpo di pistola alla gamba. Su un momento però non ho capito che mi aveva colpito, ma ho pensato che il prossimo sparo avrebbe potuto. Ho cominciato a correre verso la piazza, dove alla fine ho capito di essere stato ferito. Credo che questa notizia debba essere resa nota non per diffondere la paura, ma la rabbia piuttosto. Non spaventiamoci di nulla e che sappiamo che non ci spezziamo neanche con i proiettili. Attacchiamo per primi e sempre, con qualsiasi mezzo e qualunque modo, lo Stato e i suoi scagnozzi. Appuntamento oggi 6-12 ad ogni giorno nelle strade, il proiettile sarà restituito ai suoi legittimi e consueti proprietari. Forza ragazzacci, indagati per processo di Vervento e di Nea di Filadelfia. E sul blog potete trovare il comunicato originale in greco con le foto del proiettile, delle ferite che ha causato il proiettile che ha sparato lo sbirro nei confronti del compagno. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Battle Suffer, il brano Birds, e poi dopo si torna qui con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti. No one better look here. We invented scam, don't invent. We got plans, we got. Dal sonno Macari e Leverte furono destati dai nitriti di una mandria intera di cavalli. Temettero un attacco degli spagnoli, presero le pistole e corsero alla finestra. La realtà era ben diversa. Gli avventurieri avevano svuotato le scuderie e spingevano gli animali verso Plaza Mayor. Una campana prese a suonare dalla cattedrale e chiamava a raccolta. Era martedì 18 maggio 1683, secondo giorno di occupazione di Veracruz. Sulla città, contrariamente alla norma, brillava un sole debole e il vento, che aveva imperversato la notte, si era calmato. Dal forte non si sparava più e la chiesa di Nuestra Signora de la Merced continuava a rinserrare i corpi di prigionieri stretti uno all'altro, minata da ogni lato. Accanto al portale erano accumulate le salme, una decina, dei morti soffocati, nonché di due delle donne che avevano subito violenza nella notte. Nere, naturalmente. Un avventuriero poteva stuprare senza rimorsi una donna bianca. È una maniera tutta femminile di pagarsi il riscatto, aveva detto Morgan, l'infame, dopo la presa di Panama. Ma non l'avrebbe mai uccisa. Con le schiave invece era differente. Macari non fece caso allo spettacolo del cumulo dei cadaveri in guerra in Europa. Aveva visto ben di peggio. Chiese invece alle Verte mentre uscivano dalla casa: dove sarà finito De Grand de Lusson? Sul divano non c'era più. L'amico lo guardò con espressione beffarda. Ma non dirmi che ti manca quel Vanesio. No, anzi, speravo che si sbronzassi fino a morire. Gente come lui non muore mai. Sarà da qualche parte a ossessionare un malcapitato con i suoi comizi. Dei filosofi hanno sempre qualcosa da insegnarti. A proposito di preti, ma non sapevo che padre Labarthe fosse con noi. Dove si sarà imbarcato? E guardava un sacerdote cattolico dalla lunga sottana che in quel momento, a piedi, stava conversando in Caglie e Maria Andrea con Lorenzillo, ritto sul suo cavallo. Jean-Baptiste Labat, dell'ordine dei Giacobini, era, con il gesuita padre Gerard, uno dei parroci di Caiona, la capitale dell'isola di Tortuga. Scorazzava però a Santo Domingo, a Petit Goave e in tutti i Caraibi in cui si parlava francese, sulle navi dei Fratelli della Costa, grande degustatore di vini. Il suo naso rosso e prominente lo rivelava anche agli ingenui. Cliente occasionale di prostitute da ricondurre sulla via del bene, e recitava messe e teneva omelie dovunque lo pagassero per farlo. Diceva di essere giunto alle Indie occidentali per contrastare la diffusione dell'eresia protestante. Inviato dal Papa in persona, sosteneva di aver aderito ai modi di vita della filibusta per compiere meglio il proprio dovere. Era raro vederlo sobrio e quello sembrava uno di quei momenti. Lorenzillo lo allontanò con la punta dello stivale. Vattene, prete! Adesso abbiamo altro a cui pensare. Il sacerdote barcollò, si guardò intorno e quando vide Macari e Levert fu loro addosso. Aveva gli occhi spalancati, sbarrati, sembrava febbricitante. Amici miei, forse voi, da buoni cattolici, potete aiutarmi. E indicò il campanile poco lontano della Merced. Entro quella chiesa si sta consumando un delitto mostruoso. Per tutta la notte la masnada ubriaca ha infierito su donne e ragazzo, spesse vergini. Ogni tanto un uomo a caso è condotto fuori e sottoposto a torture e mutilazioni. Non posso nemmeno descrivere. Questo orrore porterà su di noi la dannazione. Macari era distratto dai rintocchi della campana. Padre Labà, sapete perché ci chiamano a raccolta? Oh sì, un contingente spagnolo, un migliaio di uomini a circa 2000 varas da qui. Lo si aspettava, lo comanda Don José de Esquivel, l'alcalde maggior di Antigua Veracruz, la capitale di un tempo. De Gramone intende affrontarlo a cavallo. Beh, sapete cosa ripete sempre? Io non so i marinero, so i capitani. Ma ora vi scongiuro, aiutatemi a salvare quei poveretti, impedite in nome di Dio che si commetta un delitto atroce, la dimentica altro. Macari si toccò il cappello. Mi dispiace, padre, non ho ordini in merito e non ho autorità sufficiente per darne. Caso un buon cattolico è capace di disobbedire se assiste a spettacoli che offendono la sua fede, non io. Non contate su di me per disobbedire. Per disobbedire bisogna obbedire. Il prete scoraggiato si avviò altrove, in cerca di qualcuno che gli desse retta, e Levert commentò: strano tipo, normalmente benedice tutto ciò che facciamo, ha bevuto davvero molto perché gli siano sorti degli scrupoli di coscienza. Beh, la notizia della presunta tregua tra Francia e Spagna deve avere qualche ruolo in questa conversione improvvisa, commentò Macari. Il clero da queste parti fa più politica dei governatori e dei diplomatici. Intanto in Plaza Mayor regnava un ordine un po' caotico ma efficace. I cavalli radunati erano almeno un centinaio, per lo più già con selle e finimenti. Aiutati dai mozzi, i filibustieri sceglievano il loro animale e lo montavano. Venivano distribuite picche e armi da taglio lunghe, per qualche mazza ferrata vecchia di un secolo almeno. Alcuni avventurieri si erano coperti il capo con elmi spagnoli e si erano rivestiti di maglie e corpetti d'acciaio. La stanchezza era sparita, dominavano l'allegria e l'eccitazione. Si partiva, questa volta, per una guerra seria. Il cavaliere de Grammont non era in vista. Chi dava gli ordini erano Fanon, Lorenzillo, Agreszon e George Spur. Macari e Levert furono abbastanza fortunati da trovare cavalli docili. Molti altri nitrivano disperati sotto il peso di cavalieri inesperti e per il dolore di briglie tirate con troppa violenza. Alcuni animali si impennavano oppure correvano recalcitranti attorno alla piazza. Ci volle almeno un'ora perché gli avventurieri designati fossero tutti a cavallo e disposti in un allineamento precario. Solo allora Michel de Grammont uscì claudicante dal palazzo che era stato del governatore. Vestiva come sempre di grigio e nero e ciò faceva contrasto con il viso di un pallore impressionante e con i suoi occhi infossati. Stanotte non deve aver dormito nemmeno un'ora, osservò Macari, e Levert annuì: avrà vegliato la sorella. De Grammont fu aiutato da ex Kemeling a salire sul magnifico baio, scelto per lui che non si ribellò. Cadde un silenzio quasi tombale, come se, in presenza di quell'uomo piccolo ma gigantesco e segnato dal dolore, anche i quadrupedi avessero rinunciato a nitrire. Il cavaliere si aggiustò sulla sella, superando con una smorfia le fitte che gli causavano le gambe malate. Poi passò in rassegna con un rapido sguardo la schiera dei suoi uomini e parlò con voce più arrocchita del consueto. Fratelli della costa! Catturando Veracruz avete compiuto un'impresa che passerà alla storia. Ora, però, si tratta di difenderla, questa città morbata, simbolo e vanto di un sistema coloniale altrettanto corrotto. Un esercito spagnolo sta venendo qui. Non vi nasconderò quanti sono i nostri nemici. Gli informatori ce l'hanno rivelato. Almeno 1000, con mortai e colubrine. In apparenza, andare loro incontro è una follia. Però, una follia è anche il coraggio con cui vi battete per mare, che dimostrerete anche a terra. Non è vero? Un urrà corale era scontato, ma De Grammont lo frenò subito con un gesto. No, niente grida, non mi servono da voi. Pretendo solo ardimento e ferocia. Ve ne so capaci. E si volse verso Lorenzillo poco distante. Capitano Laurent, siamo pronti? Sì, mio ammiraglio. Questi ragazzi sembrano una torma di scalzacani, ma dopo essere stati buoni soldati, sì, riveleranno anche buoni cavalieri, diavolo bastardo. E allora date l'ordine, lo stesso degli arrembaggi. Il comandante Lorenzillo, la Grande Graf, alzò la sciabola e disse: avanti, avanti la filibusta! I cavalieri si mossero, salutati dalle acclamazioni dei loro compagni che sarebbero rimasti in città. Non avevano nulla di una cavalleria ordinaria. Faticavano a tenere al passo le cavalcature, sbandavano in continuazione. Non avevano divise, ma stracci, anche quando si trattava di residui di abiti eleganti. C'era chi infilava nelle staffe i piedi nudi e callosi, chi non aveva cappello e copriva il capo con un semplice fazzoletto. Si distinguevano una decina di negri liberati e altrettanti indigeni arawakos e miskitos che avevano rifiutato la sella. Chiudeva il corteo una colombina arrugginita trascinata da due ronzini. De Grammont, Lorenzini e Fanorn, alla testa della piccola armata, non parevano trovare ridicolo il loro seguito di pezzenti, e allora il cavaliere ordinò: «Si alzi dunque una qualche bandiera!» Fanferton trasmise il comando. Apparvero, su un vessillo smisurato, i gigli di Francia, tesi dal vento. L'uomo che lo portava, tale Michel Truin, rischiò persino di essere disarcionato, tanto si stava facendo forte la brezza. Ma salì anche la Jolie Rouge, e questa volta davvero rossa e nera, simbolo della confraternita della costa, un teschio e due tibie incrociate sopra la clessidra, fosse lo stesso che di solito campeggiava su uno sfondo nero. Il corteo transitò sotto la fortezza meridionale, la Polvera, presa e tenuta da Charles Ruinet. Questi, affacciato fra i merli, salutò facendo sventolare il tricorno. Molti agitarono il cappello in segno di risposta. Subito dopo iniziava la selva disabitata di Los Hornos, con gli acquitrini che nascondeva, palme altissime, intrichi di cespugli. Finalmente, varcata la radura, apparve l'armata spagnola intenta a valicare una collina. Erano tantissimi, a cavallo e a piedi, gli spagnoli, una foresta di lance, e procedevano compatti secondo la concezione scientifica della guerra già sperimentata dai romani contro i popoli barbarici. Una foresta in movimento di lance, di archibugi tenuti sulle spalle, di scudi che riflettevano la pallida luce solare, una visione quasi del 300, non fosse stato altro per le armi da fuoco. Ai margini del territorio alberato, Michel de Grammont si rivolse a Lorenzio. «Laurent, spero che abbiate portato con voi la vostra orchestrina. Negli ultimi ranghi c'è sicuramente ammiraglio, e quindi è tempo che avanzi e che suoni per far capire a quei codardi ciò che li attende.» Poco dopo, appena usciti gli avventurieri dai boschi, tamburini a cavallo battevano una marcia solenne, alcuni flautisti ne sottolineavano le note marziali. Era la cantilena, la colonna sonora degli abbordaggi. Galvanizzati, gli avventurieri svuotarono i moschetti sul nemico, poi si gettarono all'assalto in totale disordine. Roteavano sciabole e daghe, imprecavano, cacciavano grida, belluine. I loro cavalli, frastornati, correvano nella stessa direzione per istinto di branco. Non sentivano né il morso né le redini. Erano furiosi quanto chi li montava. «Non potremo mai farcela», pensò Macari. Però anche lui fendeva l'aria con la sciabola, imprecava, berciava. Se avesse potuto osservarsi all'esterno, si sarebbe trovato simile a un demonio. Show. E loro erano Big Black con il brano Bazooka Joe. Ora si passa ancora alla controinformazione, più che controinformazione si parla di controinformazione, non è una notizia di arresti, attacchi, ma sono delle perplessità e dei punti anche su cui ci si aspetta un po' di chiarezza. Il testo per l'appunto si chiama Alcuni punti da chiarire. Allora, passiamo subito al punto 1. Con tutto il rispetto per Ilya Romanov, che ha perso un braccio durante l'esplosione della bomba che portava con sé, molto probabilmente per farla esplodere sotto gli uffici di reclutamento della polizia in Russia, invito i compagni russi anarchici a far chiarezza. Da alcune fonti si è venuto a conoscenza che Ilya facesse parte di gruppi della gioventù comunista. Quindi, dato che non è vero che tutto il mondo è paese, a meno come radiazione si aspetta una risposta chiarificatoria dai compagni. Se fosse vera la fonte, sarebbe uno sputare in faccia a Krostat e ai suoi morti chiamare compagno una persona che tra i suoi vari scopi l'unità di lotta con i bolscevichi. Poi ci sono le fonti da dove si è letto che del passato di Ilya, un po' della storiografia di Ilya Romanov. Il punto 2 invece, più di una volta si è affrontato il tema su siti e blog che a prescindere pubblicano di tutto e di più, diventando molto spesso simili a siti della stampa nazionale. Questa volta mi sono imbattuto in due articoli postati su due fonti di controinformazione, un sito e un blog, tutti e due anarchici, in cui sono rimasto sbigottito leggendo uno un testo di rivendicazione di un'azione in cui si chiede asilo per Edward Snowden. Eppure non c'è bisogno di andare a studiare la storia della CIA, la Central Intelligence Agency o della recente storia internazionale di intercettazioni tra governi mondiali per capire che tale Edward Snowden è un ex dipendente della suddetta CIA. Da anarchico posso anche finire qui la spiegazione e chiedermi perché vengono pubblicate certe cose. Un altro articolo che mi ha lasciato un po' pensieroso è stato trovato su un blog, From Russia We Love, sempre un sito, un blog di compagni anarchici, dove elencano 10 motivi per sostenere i manifestanti in Ucraina. Qui due sono le cose: sono io che non capisco nulla di anarchismo, oppure sono alcuni che non ci hanno mai capito un cazzo. Sostenere che una popolazione che si sta sfondando nelle piazze vuole entrare nella UE, nell'Unione Europea, e i motivi sarebbero perché stanno bruciando le piazze, sfidando la Federazione Russa, perché si organizzano in gruppi di autodifesa. Vi siete dimenticati di scrivere che può essere tra i manifestanti ci potrebbe essere qualche animalista vegetariano o vegano, ma che soprattutto hanno abbattuto la statua di Lenin. Nel motivo 5 i compagni dicono che chi non sostiene la gente che sta protestando non avranno motivo di lamentarsi se in futuro la stessa gente non ascolterà le loro parole. Se non fossi appoggiata ai gomiti alla scrivania, le braccia sarebbero già cadute a terra. Per chiudere, se si decide di fare controinformazione, abbiamo rispetto di chiunque segue i nostri siti e i nostri blog, senza far passare come cose assurde o false. Chi crede che i comunisti siano compagni, ricordo di andare a rileggere un po' di storia, come Spagna 36 e il massacro di Kostad, filmato quei rompicoglioni di radiazione ormai. Sono diventato rompicoglioni perché vado a beccare tutte le cose che non stanno bene. E poi soprattutto crediamo che nelle insurrezioni di massa sorgano sempre dei problemi, quindi in Ucraina, quindi altrove. Anche se non è semplicemente insurrezione quella in Ucraina, ma stanno protestando per entrare nella UE, appunto. non tutto ciò che è una pietra lanciata contro una spiraglia schierata ci trova d'accordo, così come stamane abbiamo visto a Torino anche delle sommosse nei confronti di sbirri che comunque non riscuotono assolutamente la nostra simpatia e la vicinanza, ma chi ha lanciato le pietre, chi lancia le pietre c'erano discriminati. Sì. Quindi cioè, un po' quello che dicevo io alla fine, visto che si fa controinformazione con i siti e blog, ci si definisce anarchici come siti e blog, non facciamo passare queste cose, perché è un po' assurdo, perché chiunque, cioè io mi sono ritrovato l'altro giorno a tradurre un testo di rivendicazione. Alla fine del testo di rivendicazione vado a leggere, si chiedeva asilo per un ex sbirro della CIA, per Edward Snowden. E questo ho visto su un sito anarchico, fa molto male, come i 10 motivi per sostenere i militanti in Ucraina, e come il fatto di far passare Ilya Romanov, e questo, però su questo si aspetta chiarezza un po' dai compagni russi, perché si è visto varie fonti, sono state elencate sul blog di radiazione sotto l'articolo, e quindi su tutte le fonti esce fuori la vita e il passato di Ilya Romanov. Io spero che sia solo il passato e non sia anche il presente. Sul passato non si può dire niente, chiunque nel passato abbia potuto fare scelte diverse, poi si è ravveduto e cambiare totalmente, radicalmente le proprie idee. Quindi, a meno dai compagni che sono stati citati in questo articolo, mi aspetto un po' di chiarezza. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cobalt 60, il brano è The Woman Well, e poi dopo si torna qui e si torna con la lettura di Vera Cruz e di Valerio Evangelisti. I cannot laugh and will not cry. Non potremo mai farcela, pensò Macari. Però anche lui fendeva l'aria con la sciabola, imprecava, berciava. Se avesse voluto, avrebbe potuto osservarsi dall'esterno e si sarebbe trovato simile a un demonio. La reazione degli spagnoli alla carica furiosa e caotica dei filibustieri fu sconcertante. Semplicemente volsero la schiena o le terga dei cavalli e scapparono quanto più in fretta poterono. Alcuni ufficiali, tra cui Don José de Esquivel, tentarono di fermarli senza successo. I fanti particolari che incespicavano tra i cespugli cercavano di liberarsi degli armamenti che avevano addosso e che frenavano la loro corsa. Gettavano lontano elmi, lance, scudi, pezzi d'armatura. Incredulo, il comandante Lorenzillo gridò: «Ah, vigliacchi! Addosso, addosso, filibusta! Strangoliamo quei caprones!» Per dare esempio, Cerasso per spartire e sparire nella selva. Altri nemici caddero così, ma poi De Grammont alzò una mano. «Basta! Abbiamo già vinto, è inutile infierire. Costoro non si faranno rivedere tanto presto.» L'ordine fu ripetuto dagli altri capitani e dagli altri ufficiali, magari compreso. Non fu facile, in effetti, fermare i pirati, anche perché faticavano a farsi obbedire dai loro destrieri. Infine, la spinta venne meno gradualmente. Gli uomini sudati scoppiarono a ridere. «Recupero le armi abbandonate, ammiraglio!» chiese Fanorna de Grammont. «No, sono troppo ingombranti, sono state di ostacolo a quelle ridicole marionette, lo sarebbero anche a noi.» Ricomposta con calma la colonna degli avventurieri, riprese al passo la via per Veracruz. Il tempo era molto migliorato, il sole adesso brillava, le nubi erano rade, la brezza portava l'odore non degli acquitrini ma del mare. La città stessa, a distanza, apparve quieta, quasi serena. Gli incendi si erano spenti, le colonne di fumo erano sporadiche e sottili. «L'attacco degli spagnoli dimostra che ormai l'allarme è stato dato», disse Macari. «Le colonie vicine saranno già in ebollizione, nom de Dieu!» «Abbiamo perso la loro capitale, abbiamo preso la loro capitale, presto, qui ci sarà la loro flotta!» Leverte gettò un'occhiata alle strade percorse da schiere di avventurieri. Dopo aver saccheggiato tutto, si erano impadroniti di un modesto mulino in Calle San Agustín, e ne uscivano curvi sotto sacchi di farina, in gran parte inutili, caricate sulle navi le avrebbero appesantite all'eccesso. Lo stesso valeva per i cannoni mobili sottratti al bastione, la polvora espugnato da Charles Ruinet. «Abbiamo una quantità di navi, non scordarlo, ma nessuna di esse può competere con le loro. Galleoni da 20, 50, 60 cannoni e comandati da un ammiraglio dei migliori, Fernandez de Saldivar. Se ci intercettano, ci corrono a picco all'istante.» All'ingresso di Plaza Mayor, sempre più ingombra di merci depredate, i combattenti furono accolti da applausi e acclamazioni. Non si fece affatto al caso che molti membri della spedizione scendevano da cavallo più in fretta che potevano e poi lasciavano liberi gli animali senza cercare di legarli. Erano parecchi gli avventurieri che si massaggiavano le cosce irritate e piegate da selle per loro inconsuete. Retexar marciò verso De Grammont. Teneva un gigantesco schiavo negro con le mani legate dietro la schiena per la collottola. Questi aveva occhi tondi ma vivaci, labbra grosse che si succhiava e un'espressione niente affatto stolida. «Ammiraglio, c'è stato un tentativo di evasione dalla chiesa della Merced», spiegò Retexar. «Costui ne è responsabile.» Benché pensasse visibilmente ad altro, il cavaliere obiettò: «Da quella chiesa non c'è via di fuga. Ne eravamo tutti convinti. In realtà esiste un foro al centro della cupola. Per raggiungerlo bisogna salire con una scala molto, molto alta fino al terrazzino che la circonda. Una scala più corta conduce alla cuspide e da lì alla libertà. Non posso credere che gente minacciata di soffocamento possa mettersi a fabbricare due scale. Lo hanno fatto, invece, proprio perché rischiavano la vita, professore Texar. Hanno legato fra loro le scale scovate nella sacrestia. A forza vi hanno costretto a salire questo negro, il più robusto. Ce l'ha fatta, ma è scivolato sulle tegole ed è finito su una tenda e quindi ci è quasi caduto in mano e ha parlato, sì, senza reticenze. Così l'evasione è stata sventata. Il cavalier De Grammont fissò il prigioniero seminudo color mogano dalla massa muscolare stupefacente. Come ti chiami? Domandò in francese. Dovette riproporre l'interrogativo in spagnolo perché l'altro comprendesse. Bamba! Io mi chiamo Bamba, rispose lo schiavo. Fedele ai tuoi padroni, hai cercato di farli scappare. Come si può essere fedeli a chi ti ha comperato in un mercato e frustato ogni due giorni? Gli occhi mobili di Bamba si appannarono mentre riportava a galla memorie dolorose. Posso essere devoto a chiunque, signore, ma non a chi mi ha trattato come una bestia e spinto su una scala precaria solo per vedere se reggeva un peso consistente. De Grammont rifletté. Cosa sai fare? Intendo dire, a quali lavori ti hanno addestrato? Sai cucinare, far di conto, pulire? Cosa ti facevano fare i tuoi padroni? Ho sempre lavorato la terra, mio signore. So anche ballare, mi facevano ballare spesso per divertirsi. Allora non sei adatto per il Leardi. De Grammont guardò Lorenzio a pochi passi da lui. Capitano Laurent, prendete quest'uomo sulla vostra nave. So che amate la musica e altre sciocchezze. Un ballerino alliterà la compagnia. È libero o resta schiavo? Libero, libero, ci è stato d'aiuto. Invece gli altri schiavi rimasti nella chiesa fate rincatenare e portare fuori. La loro uscita darà un po' di respiro ai prigionieri spagnoli che smetteranno di morire come sorci. Re Texar! Comandante ammiraglio, rispose l'ufficiale, è tempo di cominciare a caricare sulle navi gli schiavi e le merci preziose. Lasciate invece le cianfrusaglie e i negri troppo vecchi e troppo malati. De Grammont posò gli occhi su Macarie Levert. Voi! Cercate quel parroco, Don Benito, e ditegli di parlare ai suoi fedeli dal pulpito. Gli spagnoli, per essere liberi, devono pagarci 150.000 pezzi da 8, in contanti, avete capito? Sì, signore, sarà fatto. In quel momento, dalle Casas Reales giunse di corsa Exquemeling. Era sudato, e non per il caldo. Si era rimboccato le maniche, i calzoni gli si sfilavano e li reggeva con una mano sotto i lembi della camicia. Aveva il colletto madido e non portava mantello né copricapo. Ammiraglio, gridò, vostra sorella mi sta morendo dalle braccia. Sto facendo il possibile, ve lo giuro, ma è troppo debole. La vostra vicinanza potrebbe darle forza. Claire, bisbigliò De Grammont. Scese troppo in fretta da cavallo e il dolore lo obbligò a piegare il ginocchio. Exquemeling si precipitò a reggerlo prima che cadesse. No, lei non può morire, disse il capitano. È l'unica cosa bella che ho avuto dalla vita. Dio è mio nemico, ma non può strapparmela così vigliaccamente. Macari non poté udire altro. Toccò la spalla di Levert e si avviò con lui verso Nuestra Signora della Merced. Il tempo restava bello, l'area si era depurata dagli odori sgradevoli, però in un angolo di cielo si stavano accumulando nubi nere, gravide di altra pioggia. Veracruz, nelle vie centrali, pareva intatta. E proprio in quel momento le navi dei Fratelli della Costa facevano il loro ingresso nel porto, tenendosi a distanza di sicurezza dai cannoni di San Juan de Ulua. Dalla forezza di corallo, del resto, non si sparava da ore. O gli spagnoli avevano esaurito polvere e palle, o avevano finalmente intuito l'inutilità del loro fuoco. «Beh, potremmo berci un bicchiere», disse Levert, indicando un'osteria saccheggiata. «Forse qualche barile è rimasto intatto». Macari scosse il capo. «No». «Abbiamo un compito e dobbiamo svolgerlo in fretta e bene». «Hubert, ma ti parlo di 10 minuti soltanto, dopo parleremo al prete. Torniamo da una battaglia, siamo al limite delle nostre energie, è giusto che possiamo...» «No, non è giusto!» Macari si irrigidì. «Prima si eseguono le consegne e poi, se i capi vogliono, possiamo permetterci di riposare». Levert lanciò un'occhiata di rammarico alla taverna. Seguì l'amico, ma non rinunciò a dirgli: «Lo sai, Hubert? Sei rimasto troppo ligio ai costumi militari. Prendi tutto alla lettera come se non fossimo nella filibusta. Qui si vive in libertà». «Libertà è un corno! La libertà è una forma di disciplina». Adesso Macari era irritato sul serio e non si sforzava di nasconderlo. Ho lasciato un'Europa in preda all'anarchia. Chissà se si chiama anarchia, e ai capricci dei troppi sovrani. Ho combattuto guerre strane in luoghi di cui i comandi avevano persino dimenticato l'esistenza. L'unico potere effettivo del vecchio continente non erano i re o i papi, erano gli eserciti. La sola civiltà non precaria, capace di riportare la disciplina col taglio della spada. Beh, con ciò, perché un esercito esista, deve vigere la regola dell'obbedienza. Ciò che ordinano i condottieri sarà trasmesso lungo i gradi della gerarchia, fino al soldato semplice. Così si crea una forza capace di forgiare nazioni, se necessario. Molto scettico, Levert osservò. Amico mio, sei capitato fra la gente sbagliata. Dovevi rimanere nell'esercito regolare di Sua Maestà Luigi XIV. Qui la logica è tutto l'opposto di ciò che descrivi. Noi si sovverte, non si edifica un accidente. Oggi, ma domani, siamo un popolo armato che impone la sua volontà sostituendo il proprio potere a un altro. Il nostro ideale è la guerra, il nostro fine è la rapina delle ricchezze altrui. Perché ciò si diventi un futuro in queste terre appena colonizzate è necessaria un'obbedienza assoluta a capi che... La voce di Macari fu resa inaudibile da grida lancinanti. Lui e Levert erano entrati nella piazzetta di fronte alla chiesa della Merced. Chi gridava come un ossesso era un uomo grasso e nudo, con mani e piedi legati. Una corda lo teneva appeso ai rami di un albero per i suoi genitali. Il nodo scorsoio gli stringeva lo scroto e il penne, violacei e sanguinanti. 5 o 6 avventurieri, tra cui Henri Duval, si divertivano a spingere il corpo facendolo ruotare. Era una tortura frequentissima tra i filibustieri e Macari non mi fece caso. Vide invece sulla soglia della basilica Don Benito Alvarez de Toledo. Contemplava lo spettacolo e si teneva il viso tra le mani a bocca spalancata, paralizzato dall'angoscia. Camminò verso di lui. «Prete, devo darti delle istruzioni», gli disse senza garbo. Dovette ripetere la frase, tanto alti erano gli strilli del torturato. Il parroco della Merced uscì dal suo intontonimento e indicò la canonica. «Venite, possiamo parlare là. Don Juan Morfia non merita di soffrire tanto. Fate terminare questo orrore». «Quale orrore?» chiese Macari, poi comprese. «Ah, Don Juan Morfa, che strano cognome!» Levert gli bisbigliò. «Si chiamava John Murphy, irlandese. 20 anni fa era dei nostri, alla Tortuga. Tradì e passò agli spagnoli, che hanno fatto di lui un ricco possidente con tanto di milizia privata al suo comando». Don Benito insistette quasi in lacrime. «Signore, pronunciate la parola che salverà il disgraziato e la vostra anima». «Non ne ho la minima intenzione», rispose Macari risoluto. «La guerra, la guerra! Avanti, prete maledetto, fammi strada». Quando Macari e Levert uscirono dalla canonica dopo aver istruito Don Benito su ciò che avrebbe dovuto dire dal pulpito, Re Texar era già arrivato a selezionare e a mettere in fila gli schiavi racchiusi con i padroni nella chiesa della Merced. Erano uomini e donne della pelle scura, di ogni età. Assieme a loro, una torma di bambini. Molti, negri, erano vestiti poveramente e alcuni erano addirittura nudi. Non mancavano però le schiave che, grazie a padroni ricchi e generosi, avevano addosso velluti, sete e colletti ricamati. «Muovetevi, animali!» gridava Re Texar. «C'è un Baptiste Marcel! Dateci dentro con quella frusta!» Si rivolgeva a due marinai di Lorenzillo, Jean-Baptiste Renard e Marcel Ruff, che, a colpi di staffile, cercavano di incolonnare la massa degli africani propensa a sbandarsi e impazzita dal terrore. «Non rovinata di mordier!» sbraitò Re Texar quando, senza volere, Ruff colpì una negretta graziosa in pieno volto. «Questi valgono quanto loro, purché però siano intatti! Almeno 100 scudi l'uno! Picchiateli sui fianchi, sulla schiena e sul sedere, come fareste con un cavallo!» Magari le verte che sospingevano Padre Benito attesero che gli schiavi fossero tutti furi per entrare in chiesa. Magari, prima di addentrarsi, gettò un'occhiata al grassone che aveva penzolato dall'albero. La tortura era terminata, Duval e gli altri erano spariti, probabilmente Don Juan Morfa aveva confessato dove teneva nascosti i propri beni. Ora l'irlandese giaceva su terra battuta che irrorava di sangue. Nessuno gli badava, il suo inguine era una piaga orribile. Tremava ed emetteva un gemito basso e costante come certi folli. La morte per dissanguamento non poteva tardare. L'interno della chiesa era reso irrespirabile dal tonfo degli escrementi. L'apertura in cima alla cupola non riusciva a dissipare nulla. L'unica luce proveniva, oltre che dal foro, dalle vetrate multicolori raffiguranti San Michele, San Giorgio, la Vergine, San Sebastiano e altre figure sacre imposte tratte dalla leggenda aurea. Riflessi gialli, azzurri, verdi, violacei erano proiettati sull'altera classe dominante di Veracruz, spagnola o creola. Ora si trovava ridotta a un ammasso di corpi sudati, puzzolenti dagli abiti lussuosi, imbrattati dalle feci e dall'urina. Decine di bambini piangevano. Una partoriente, assistita, poverette, da due suore, stava mettendo al mondo un figlio prematuro e strillava senza posa. Sospinto da Macari da Levert, Padre Benito salì sul pulpito. Traspirava copiosamente, pareva sul punto di vomitare, ma trovò la forza per dire: «Figli miei, dobbiamo rassegnarci alla sconfitta.» «Parla più forte, prete!» gli intimò Macari. «Così non ti sentono.» E Padre Benito allora alzò la voce: «Fratelli miei, dobbiamo rassegnarci alla sconfitta», ripeté. «I francesi hanno catturato la nostra città e non mostrano clemenza. La grazia di Dio non li tocca. Per placarli servono 150.000 pezzi da 8. Solo se li avranno vi lasceranno liberi. Se non riuscireste a raggranellarli vi uccideranno. Il Signore è molto lontano dalla loro anima.» La maggior parte di quelle parole andò perduta sotto la navata nel dolore collettivo. Qualcuno però ne afferrò il senso e rumoreggiò. Un membro del cabito abierto aveva, meno timoroso dei compagni, si fece avanti e aveva l'aspetto di un artigiano appartenente a una delle gilde. A differenza degli altri non appariva smunto malgrado le ore interminabili di sofferenze e di umiliazioni. «Padre», disse al sacerdote, «150.000 pezzi da 8 è una somma degna dello scrigno del governatore. Nessuno di noi la possiede.» Padre Benito allargò le braccia. Gaspar Herrera. Non la chiedono mica a uno solo, la chiedono a tutti. Io penso... Hai finito di pensare, disse Levert, si avvicinò all'artigiano e con un colpo di sciabola gli fendette il cranio. L'uomo sprizzò sangue in ogni direzione e strabuzzò le pupille che si spensero e lentamente si afflosciò. E allora Macari salì sul pulpito e spinse via padre Benito, a rischio di farlo cadere sulle panche sottostanti. 150.000 pezzi da 8, gridò in spagnolo. È un prezzo a buon mercato in cambio delle vostre vite. Vi concedo mezz'ora. Non voglio gioielli né altra merda, solo contante, monete d'oro peruviane, una sull'altra. Gli schiavi che ci avete portato via valevano di più, obiettò un ignoto dalla platea. I negri sono, per loro natura, un componente del bottino, non fanno parte del riscatto. Ora, una buona notizia, chi ha i soldi a casa e non con sé sarà accompagnato dai nostri soldati a recuperarli. Chi può lo eviti, dovrebbe scavalcare comuni di morti. Meglio frugarsi addosso, non credete? Magari non stette a controllare l'esito della colletta. Quel luogo mefittico gli dava la nausea, spinse Levert per il braccio e lo condusse fuori. Ambedue inspirarono a pieni polmoni un'aria che sembrava, per il momento, libera da miasmi. Volavano molte mosche fastidiose, dirette al corpaccione dell'uomo castrato, morto da poco per dissanguamento e ancora pendente dall'albero sovrastante. Il nodo scorsoio reggeva brandelli dei suoi genitali. Trascorse solo una decina di minuti, poi padre Benito uscì quasi di corsa dalla chiesa e reggeva un grosso involto ricavato da una sottana. Qui ci sono monete d'oro, diamanti, monili, tutto vale ben più di 50.000 pezzi da 8. Macari era stupefatto. Avevano questo tesoro addosso. Non si sono nemmeno fatti riaccompagnare alle loro case. E dove nascondevano tanti soldi? Il prete si mostrò impaziente, aprì il fagotto sulle scale, non aveva mentito. C'erano soprattutto scudi d'oro provenienti dalle miniere peruviane, ma anche gemme, diademi, collane, monete in altra valuta, formavano una somma enorme. Prendete e ordinate il rilascio di quegli infelici. Prima devo sentire l'ammiraglio, rispose Macari senza riuscire a superare la propria meraviglia. Riannodò i capi dell'involto, era così pesante che stentava a reggerlo. Prete, torna dentro. Se hai detto la verità, e solo se hai detto la verità, le promesse saranno mantenute. Alcuni avventurieri si erano fatti intorno, attratti dal luccicore. I loro occhi sfavillavano più delle ricchezze predate. E Macarelli li guardò con severità. Questo bottino lo distribuirà il cavaliere De Gramone, solo lui, voi, fate la guardia, sia all'interno che all'esterno. Né il prete, né tantomeno i prigionieri devono lasciare la Merced e, soprattutto, badate che non costruiscano scale di nessun tipo. A causa della vostra incuria un intero tesoro stava per sfuggirci dalle mani. Macari non aveva un grado tale da impartire ordini del genere. Ciò nonostante, il suo tono fu così imperioso che tutti gli diedero retta. E visto il successo, aggiunse un'altra disposizione. Fate spogliare chi è ancora vestito, che non possano nascondere nulla su di sé. E se rifiutano? Obiettò un filibustiere. Uccideteli e poi denudate i corpi. Mentre tornava verso Plaza Mayor, incurvato dal peso del fagotto, Macari disse a Levert: degli spagnoli non ci si può fidare, mai! Ne abbiamo appena avuto la dimostrazione. Ma mi sorprende che abbiano anteposto il denaro alla loro vita. Imbottiti di oro e gemme rischiavano di essere scoperti e uccisi. Beh, questo li capisco, Francis. Seguono una filosofia simile alla nostra, senza ricchezze, sangue o razza. Non danno la supremazia, sono aria fritta. Levert sembrò colpito. Stai dicendo che somigliamo a loro? No! Per niente. Noi siamo soldati. È pretario possedere le donne altrui, è nostro diritto, da che guerra è guerra. Loro passeggiano con la spada per puro ornamento, senza sguainarla mai. Per questo ti dico che sono semplici sfruttatori, borghesi anche in battaglia. Ucciderli è un piacere, forse Dio, se, ma solo se ci vede, approva che li castighiamo. Erano nei pressi del governatorato quando il tempo mutò repentinamente. Vento furioso, nuvole nere, raffiche di pioggia. Per fortuna il porticato delle Casas Reales era a due passi. Ciò non impedì agli avventurieri di essere introdotti nel salone principale completamente fradici e umiliati dal cattivo aspetto delle loro vesti. De Gramont era lì e seguiva apprensivo le mosse di Exquemeling, che faceva ingurgitare a Claire qualche intruglio. Magari non ci avrebbe scommesso. La donna era ancora viva, esangue. L'avevano sdraiata su un divano e non avevano osato riportarla in una delle camere da letto. Pareva uno scheletro fragile, coperto da un panno leggero. Muoveva qui e là occhi enormi e resi tali dalla pelle aderente allo specchio. Era lucida, però. Ogni tanto sospirava in modo lieve, come per non farsi rimarcare. Si intuiva che era stata molto bella e si era assuefatta a essere trasformata in mostro. «È straordinario che sia ancora in vita», disse Exquemeling. «Ieri non l'avrei detto, ma c'è speranza. Bisogna seguitare a rinvigorirla, una pozione dopo l'altra». De Gramont aveva dimenticato i dolori propri, ma sembrava essersi fatto carico di quelli della sorella. Le stringeva le mani ossute. «Sperimentate tutti i rimedi che vi vengono in mente, dottore. E quanto sto facendo, ammiraglio? Ma è possibile che Clay torni a essere come prima?» La domanda fu posta con voce quasi singhiozzante. De Gramont ignorava le lacrime. Non di meno, aveva gli occhi umidi. «No, ammiraglio. L'hanno fatta patire troppo quei preti. Non so per quanto rimarrà in vita, ma escludo che possa riprendere l'aspetto di un tempo. E vi sto parlando sinceramente. Spero che lo apprezziate». «Sì, lo apprezzo», sussurrò il condottiero. E solo allora si accorse della presenza di Macaré di Levert, notò il fagotto. Il velo di lacrime scomparve, gli occhi tornarono freddi. «Gli spagnoli hanno pagato il riscatto, suppongo». Macari fece una leggera riverenza. «Sì, mio capitano, non è tutto contante, però a occhio e croce siamo oltre 150.000 pezzi da otto. Ognuno di quei damerini bugiardi aveva addosso una fortuna, suppongo che abbiano diritto alla libertà promessa», e porse il sacchetto. Allora De Gramont guardò l'involto e indicò una poltrona. «Posatelo lì». Poi meditò un poco. «Ufficiale, lascerete liberi i nobili di bassa condizione e i cittadini privi di rango. Tratterrete invece coloro che rivestivano cariche pubbliche e facevano parte del cabildo, incluse le spose, se ne hanno. Il loro riscatto può essere molto superiore a che 4 soldi. «Come volete, signore, però avevamo promesso...» Il cavaliere allora indicò la promessa, la sorella. «Davanti a ciò che mi hanno fatto gli spagnoli e i preti non c'è promessa che tenga», e ruttò una bestemmia di un'oscenità spaventosa. Macari si inclinò a mezzo busto. «Farò come comandate, Sieur de Gramont». In quel momento da una porticina entrò Donna Gabriella Junot Vergara, bella come non mai, vestita di seta gialla. Reggeva tra le mani una piccola ampolla. La porse Exquemeling. «Ho fatto l'infuso che mi avevate chiesto, dottore. Tutte erbe con il fuoco per elemento principale. Spero che possano servire». Mentre il chirurgo prendeva l'ampollina, De Gramont le afferrò la mano. «Grazie, amica mia». Come per sottrarsi a un bacio improbabile, Gabriella girò attorno al cavaliere e, così facendo, gli premette il seno contro le spalle. un gesto collaudato di cui magari aveva già avuto esperienza. Non dovete ringraziarmi, ammiraglio. Darei la vita per la vostra povera sorellina. Turbato dalla scena recitata con gaia naturalezza malgrado la retorica delle parole, Macari provò un tuffo al cuore. Fu confortato dalle pupille scure e profonde di Gabriela. Fissavano proprio lui e parevano concordare un imminente appuntamento. Ecco, oggi qui a questo punto si termina la diretta d'azione. Lo ricordo che il prossimo appuntamento è per venerdì 13 con la controinformazione e la musica, mentre per il continuo della lettura di Vera Blues il lunedì 16 dicembre. Allora, sì, lunedì 16 dicembre. Ricordiamo gli indirizzi utili per redazione@radistici.org per chi vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicato, giornale online, qualsiasi cosa. Poi ovviamente viene valutata e se va pubblicata o meno. Per il blog radazione.noblogs.org, il blog di redazione, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare già da domani la diretta d'azione di oggi, per chi si è persa la parte di racconto la può riascoltare oggi, come potete riascoltare le puntate precedenti, per scaricare anche opuscoli, libri, manifesti e cd. Per la radio redazione.listen1radio, ma chi l'ascolta non c'ha bisogno di sapere come ci si arriva e come si accende. Comunque, nel caso, radiazione.listen1radio.com, altrimenti attraverso il banner di radiazione ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 e vi partirà la diretta d'azione. Ora vi lascio con un brano degli Insider Treatment, con il brano Claustrofobia. E poi l'appuntamento è direttamente per venerdì. di voci.